Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Vota Antonio, la trasmissione con la quale quest'anno abbiamo cercato di raccontarvi come la rete stesse cambiando la politica, come la politica appunto stesse cambiando con la rete, quello che potete fare voi anche volendo per farvi sentire. Oh, ultima puntata prima dell'estate, poi c'è agosto, cerchiamo di staccare il più possibile gli occhi da smartphone e tablet, godiamoci un po' di sole se possiamo, insomma a me quest'anno è consentito dopo tante volte fatte ad agosto a lavorare e magari si parla di politica ma la si legge sui giornali o la si guarda sui telegiornali, quindi una puntata di commiato se così vogliamo dire, nella quale cerchiamo di riassumere anche un po' degli argomenti che abbiamo trattato nel corso di quest'anno. Andremo dai più profondi ai più leggeri. Allora, puntata di commiato, voglio partire da dove abbiamo iniziato, dallo spiegarvi perché abbiamo pensato questa trasmissione in quest'anno, non solamente perché c'era la campagna elettorale, c'era la politica che si stava avvicinando ad internet, c'era il boom del Movimento 5 Stelle, non è solo una passione compulsiva mia, del sottoscritto per i social network e per la rete, l'idea di fondo è che la rete possa essere uno strumento straordinario a supporto della democrazia e ho detto a supporto. La parola democrazia digitale è una parola diciamo molto più ampia del concetto di democrazia diretta ed è la democrazia diretta che sta imponendosi, si sta imponendo in modo diverso da paese a paese ma ha già portato le istanze di moltissime persone che prima non partecipavano alla vita politica, alla ribalta. Parlo dell'Indignados, Occupy Wall Street, in Italia il Movimento 5 Stelle. La voce l'avete riconosciuta, è quella di Gianroberto Casaleggio, ideologo del Movimento 5 Stelle, anima web del movimento, intervistato da Gianluigi Nuzzi, un'intervista che naturalmente ha fatto discutere. Nei prossimi mesi, ha detto, in Italia ci saranno disordini e rivolte, che la politica non potrà dominare, i partiti ormai sono strutture arcaiche, il futuro è la democrazia diretta attraverso la rete. Ecco, questa da alcuni viene considerata la punta avanzata della cosiddetta e-democracy, da altri la punta più arretrata. Arretrata perché? Perché rappresenta proprio un arretramento rispetto al concetto di delega in politica, di democrazia rappresentativa, che è il cuore del nostro sistema e che ha anche un senso preciso. Insomma, che cosa vuol dire democrazia rappresentativa? Molto semplicemente che io voto e c'è una persona che poi, nella sostanza, decide al posto mio, ma soprattutto decide con la sua testa. Allora mettiamo due opinioni a confronto, due opinioni storiche, perché il dibattito, guardate, non è che arriva con il Movimento 5 Stelle, è un dibattito storico, intenso, filosofico, che coinvolge tantissimi elementi. Allora ci perdonerete se a Casaleggio e al Movimento 5 Stelle affianchiamo innanzitutto un maestro del pensiero, Jean-Jacques Rousseau. Ci è utile a rappresentare quanto il tema appunto scavi a fondo nelle radici della riflessione filosofica e politica. La sovranità non può essere rappresentata per la medesima ragione per cui non può essere alienata. Essa consiste essenzialmente nella volontà generale e la volontà non si rappresenta. O è essa stessa o è diversa. Non c'è una via di mezzo. I deputati del popolo non sono dunque, né possono essere, i suoi rappresentanti, ma soltanto i suoi commissari. Non possono concludere nulla in maniera definitiva. Ogni legge che il popolo in persona non abbia ratificata è nulla, non è una legge. Il popolo inglese ritiene di essere libero. Si sbaglia di molto. Lo è soltanto durante l'elezione dei membri del Parlamento. Appena questi sono eletti, esso è schiavo, non è nulla. Nei brevi momenti della sua libertà, l'uso che ne fa giustifica davvero che esso la perda. C'è dall'altra parte, in difesa invece della democrazia rappresentativa, il discorso forse più convincente sul tema, è forse il primo che si ricordi, quello di Edmund Burke agli elettori di Bristol. Siamo nel 1774. Il Parlamento non è un congresso di portatori di interessi diversi e ostili, i quali interessi ognuno deve difendere, come fosse un agente o un avvocato, contro altri agenti e avvocati. Il Parlamento è un'assemblea deliberativa di una nazione, con un unico interesse. Interesse che deve essere giudicato non da obiettivi localistici, né da pregiudizi, ma dal bene generale. Voi scegliete un membro del Parlamento, in effetti, ma quando lo avete scelto, non è un membro di Bristol, ma è, appunto, un membro del Parlamento. Se l'elettore locale dovesse avere uno specifico interesse o dovesse formarsi un'opinione affrettata e chiaramente diversa dal vero bene per il resto della comunità, il membro del Parlamento di quel luogo dovrebbe essere il più distante possibile da qualsiasi tentativo di darvi effetto. Insomma, è una questione complessa e antica. Su una cosa, diciamo chiaramente, i 5 Stelle e Casaleggio hanno ragione, sul fatto che internet, la rete, la connessione, questo mondo di connessioni che ora viviamo solo parzialmente, che sarà sempre più intenso con il passare degli anni, possono cambiare le carte in tavola, possono soprattutto dar luogo a nuovi modelli di partecipazione, di inclusione dei cittadini nella vita politica, un nuovo modo di rapportarsi con gli eletti e un nuovo modo degli eletti di rapportarsi con i cittadini, anche un nuovo modo di rapportarsi con le amministrazioni. Pensate solamente a quello che è successo, e ve l'abbiamo raccontato, con l'elezione del Presidente della Repubblica. Vi abbiamo raccontato quanto è una cosa difficilmente valutabile a tutti gli effetti, però quanto la pressione dal basso, anche tramite la rete, possa aver avuto un impatto sulla mancata elezione di Franco Marini alla Presidenza della Repubblica. Perché? Perché c'era un Parlamento nuovo, appena insediato, con molti giovani, e quando ci si è accordati sul nome di Marini, molti, soprattutto all'interno del Partito Democratico, hanno subito molte pressioni attraverso Twitter, attraverso Facebook. Certo, magari è stata solo la spintarella finale che li ha convinti a non obbedire alla logica di partito. Poi in realtà rientrano mille logiche diverse, logiche e politiche molto diverse. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Dunque, democrazia diretta, democrazia rappresentativa, democrazia digitale. Lo avete sentito anche nell'intervento di Roberto Casaleggio, nella voce di Roberto Casaleggio che vi abbiamo fatto sentire. L'idea corre subito alla Germania, dove il partito pirata tedesco ha strutturato per primo un sistema di voto online. Si chiama Liquid Feedback, ve l'abbiamo raccontato, ve ne abbiamo parlato, lo riassumo per chi ci ascoltasse per la prima volta: una sorta di social network, ma ovviamente con sistemi di controllo degli accessi piuttosto forti, che consente una partecipazione alla vita politica e del partito. Insomma, consente di votare online, anche attribuendo delega ad altri che si ritengono più esperti su determinate materie. Ma come viene inteso e utilizzato questo sistema? Insomma, lo snodo è proprio questo. This program we are writing currently. This is a long and painful process. Il punto è proprio questo. Al momento stiamo preparando il programma. È un processo lungo e faticoso. Ci incontriamo a congresso 2 volte all'anno e tutti i pirati tedeschi possono partecipare. Viene presentata una proposta, viene discussa e tutti i presenti possono votarla. Il problema è che così il sistema non è molto efficiente. Così chiediamo alle persone di mettere progetti e discussioni in liquid feedback, in maniera da avere al congresso delle proposte che sono state votate da alcune centinaia o migliaia di persone. Anche perché all'ultimo congresso c'erano 800 proposte e siamo riusciti a discuterne 40 o 50. E poi non tutti riescono a partecipare ai congressi. Dunque, con Liquid Feedback, l'obiettivo è aumentare l'efficienza, portando al congresso proposte di qualità e sulle quali si è già votato. Ma la decisione finale spetta comunque al congresso, mai al sistema online, almeno per il momento. Un tema interessante e che può diventare centrale: Una volta redatto il programma con Liquid Feedback, il rapporto con chi poi viene eletto in Parlamento come funziona? Of course, I mean, we use it now as a political platform. La cosa importante è che le proposte che ne emergono non siano vincolanti per i politici. In Germania gli eletti non hanno vincolo di mandato e quando sono in Parlamento sono liberi di decidere cosa è giusto e cosa non lo è. La legge è questa e non vogliamo cambiarla, perché i politici hanno le loro idee, la loro morale e naturalmente si devono basare su questo. Ai nostri eletti chiediamo di guardare nel sistema e se prendono decisioni che sono contrarie a quello che si è deciso con questo sistema, di spiegare accuratamente perché l'hanno fatto. Probabilmente se un eletto lo fa troppo di frequente, presumibilmente non verrà più votato. Ma non c'è ragione di far andare in Parlamento gente che vota solamente quello che vogliamo. Sono politici, sono persone, sono umani e quindi votano quello che vogliono. Questa è la visione del partito pirata tedesco nelle parole dell'uomo che si occupa appunto di Liquid Feedback per il Pirate Party. Poi c'è la visione del Movimento 5 Stelle, diversa. In alcune regioni italiane il Movimento sta sperimentando un sistema che affonda le radici in Liquid Feedback, ma Davide Barillari, che è il capogruppo nella regione Lazio del Movimento e che è un informatico, lo ha rivisitato, corretto e risistemato. Restiamo sull'uso che se ne fa e su come lo si concepisce, perché il tema è esattamente questo. I cittadini che agiscono in rete vincolano le opinioni e le scelte di voto degli eletti? Sentiamo cosa ci ha detto proprio Barillari. Penso che l'articolo 1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, quindi ogni volta che noi chiediamo al popolo quello che ne pensa, penso al referendum sul nucleare o sull'acqua, nelle indicazioni le abbiamo anche chiare, anche da persone esperte, perché magari io non so nulla di sanità perché sono un informatico, ma tutti insieme possiamo vedere un problema, tutte le competenze e le esperienze che abbiamo, metterle in rete insieme e questa intelligenza collettiva può guidarci a fare una scelta anche molto, molto impopolare, molto forte, ma consapevole, mentre magari un singolo parlamentare non è competente su tutto e magari ha dei limiti in più rispetto a questo gruppo di persone che invece sono competenti, addirittura le faccio proprio l'esempio opposto. Ho un ultimo paio di domande, in realtà più tecniche a questo punto, posto che naturalmente la questione della quale stiamo parlando è una questione aperta, perché per esempio, da quel che sappiamo noi, il partito pirata tedesco, che pure ha una visione per certi aspetti abbastanza simile, soprattutto al lato della rete, a voi, scusi, facciamo un'altra domanda su questo che così ci restiamo ancora un attimo, loro... il concetto di democrazia rappresentativa lo tengono ben presente e ben fermo. Le persone con le quali abbiamo interloquito ci dicono chiaramente questo ci serve soprattutto per la vita interna del partito, soprattutto per le proposte di legge, ma poi insomma non si discute. Quando una persona è là e spetta a lui decidere, anche, ripeto, per il bene di tutti i cittadini, anche di coloro che non partecipano a questo processo. Sì, noi come sa il Movimento 5 Stelle è basato su questi portavoce che hanno proprio l'obiettivo di rappresentare tutti i cittadini, portare delle soluzioni, delle alternative negli organi istituzionali e poi riportarle, diciamo, ai cittadini stessi, quindi siamo una sorta di ponte. Questo vuol dire che non siamo dei robot che eseguono quello che viene, diciamo, detto dai cittadini, però ci mettiamo in una posizione diversa rispetto a un rappresentante che magari non li ascolta nemmeno. Quindi siamo un po' una via di mezzo. Quindi tutto questo, quello che dico, può avere anche solo una funzione di dialogo e di interlocuzione con i cittadini, cioè non è detto che poi porti al fatto che automaticamente quello che decide la rete è la decisione del movimento, o sì, perché questo è un punto che mi interessa molto. Certo. Guardi, al di là poi delle polemiche, no, che ci sono state su di voi anche per queste questioni, è proprio una questione che mi interessa perché è, se vuole, il cuore della nostra democrazia alla fine. Sì. No, noi vogliamo muoverci sempre di più verso questo modello in cui noi siamo veramente dei portavoce, per cui come posso dire, quando una proposta, una legge, una qualsiasi idea viene portata avanti da 10.000, 20.000, 100.000 persone, come facciamo noi rappresentanti politici a dire di no oppure opporci? Questo è proprio il senso della democrazia, quando siamo di fronte a scelte importanti che dal basso proprio i cittadini stessi decidono, noi per forza dobbiamo portarle in Parlamento e Regione e far sì che vengano approvate. Eh beh, poi si porta sempre questo esempio, si porta l'inno che sentite di sottofondo, quello dell'Islanda, l'Islanda che ha deciso di, insomma, raccogliere le opinioni dei suoi elettori per fare una costituzione online che ancora è in attesa di approvazione, a dir la verità. Oh, però ricordiamoci che l'Islanda è un paese di 300.000 abitanti, perché insomma parliamone. Però qualcosa si sta tentando di fare anche in Italia. E che cosa si sta tentando di fare? Si sta tentando di consultare i cittadini proprio sulle riforme costituzionali con il sito partecipa.gov.it, un sito articolato su più livelli, nel senso che si può fare un questionario semplice con 8 domande, un questionario più ampio. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, Giuseppe Della Pietra, consigliere del Ministro per le riforme Quagliariello. Assolutamente, è ovvio che le decisioni ultime rimangono all'organo legislativo per eccellenza, il Parlamento, però il Parlamento, in questo caso anche il Governo, hanno la possibilità di consultare, in questo senso il Ministro Quagliariello, anche il Presidente Letta hanno spinto fortemente sia su questo gruppo di esperti sulle riforme costituzionali che si riunisce tutti i lunedì, che rappresentano un po' le élite, sono tutti costituzionalisti che rappresentano un po' tutti i pensieri, ma si voleva anche andare a vedere cosa pensava il popolo, ed è una cosa che poi appartiene a tutti, sono le regole del gioco, cioè la Costituzione, e vedere anche che differenza c'era tra le élite e tra il popolo, le persone comuni. C'è un altro modo però di rendere partecipi i cittadini, un modo diverso che magari parte dall'alto ma che raccoglie quello che avviene in basso. Allora, ci sentiamo una voce interessante e poi dopo la pausa, se questa intervista non ve la ricordate, e probabilmente no perché l'abbiamo fatta e l'abbiamo messa in onda a febbraio, vi spiego chi è. My team and I work to... Io e il mio team lavoriamo per essere sicuri che i cittadini abbiano il più ampio accesso possibile alle istituzioni. Ci sono conversazioni quotidiane e che vanno avanti tutto il giorno su come Chicago possa funzionare bene e come farne un posto dove vivere meglio. È importante che il governo della città partecipi a questa conversazione. Noi ci assicuriamo che quello che avviene nella Town Hall sia comunicato all'esterno e lo facciamo con i social media. Ma più importante, li usiamo per avere un feedback, per ascoltare cosa ci dicono le persone. Ascoltare è assolutamente importante. Il pubblico ha una voce e le istituzioni la devono ascoltare. Listening is absolutely important that the public has a voice. And governments need to hear that voice and be engaged in the conversation. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, vi ho fatto sentire una voce prima della pausa. Non vi ho detto chi era e adesso ve lo dico. Si chiama Kevin Hoswith, è Social Media Director della città di Chicago. L'abbiamo intervistato in occasione della Social Media Week di Milano. Voi direte, cosa fa un Social Media Director? Insomma, spargerà comunicati stampa, ottime notizie del comune, magari darà qualche informazione di servizio, vi sbagliate completamente. Sentite cosa succede negli Stati Uniti. Let's talk about the first budget. Siamo entrati in carica a maggio e in novembre c'è stato da varare il primo budget. Ognuno a Chicago ha un'idea su come risparmiare soldi e su come il governo della città possa farlo. Così abbiamo creato un sistema per raccogliere le idee dei cittadini, un sito di crowdsourcing che ci mostrava le idee e quali fossero le più popolari, perché si poteva anche votare, mentre gli impiegati del comune sono stati coinvolti nel rispondere ai cittadini, dando loro un feedback sulle idee stesse. Abbiamo creato una conversazione online su come la città potesse gestire le sue risorse finanziarie. Lo stesso sindaco poi ha partecipato ad una sessione di video chat in diretta su Facebook, dove ha risposto alle principali domande arrivate dal pubblico. E abbiamo passato un'ora in uno studio radiofonico con due speaker che giravano al sindaco le domande della gente, che nel frattempo poteva twittarle o postarle su Facebook. Una buona strada per raccogliere le idee, dare un feedback e capire come queste idee possano cambiare la città. Queste conversazioni avvenivano ovunque. Quello che abbiamo fatto è creare una community online dedicata nella quale noi siamo stati solo dei partecipanti. While we helped establish the community, we were all just participants in it.

Per fare tutto questo hai bisogno anche di un'infrastruttura, evidentemente, per tenere in contatto tutti i tuoi cittadini, anche da zone disperse, zone di montagna. Ebbene, la provincia di Trento è quasi interamente cablata e questo naturalmente pesa sulla facilità di connessione con i propri cittadini. Citavamo poco fa l'esempio della provincia di Milano, del comune di Milano, scusate. Ecco, quello secondo me è un caso particolarmente interessante. L'abbiamo citato più di una volta, però mi fa piacere ricordarvelo ancora, perché le amministrazioni pubbliche possono fare moltissime cose con la rete. Una di queste è la gestione delle emergenze. Per chi se lo ricorda, quando ci fu l'incidente alla metropolitana di Milano, e insomma un incidente duro, drammatico, tra l'altro si bloccò tutto, ebbene il sindaco Pisapia, o molto più probabilmente il suo staff, non solo ha aggiornato in diretta su quello che succedeva, ma ha passato il tempo, almeno l'account del sindaco Pisapia, dunque su Twitter, ha passato il tempo a rispondere alle domande dei cittadini, che erano domande anche molto semplici, insomma, se devo prendere la metropolitana e andare in questa direzione, che cosa posso fare? E appunto Pisapia, l'account di Pisapia, probabilmente gestito dal suo staff, ma in maniera intelligente, rispondeva. Questo è un buon esempio. Ce ne sono molti altri. Ad esempio, ci si può muovere con i famosi big data, ossia le grandi quantità di dati. È passato un po' di moda, ne abbiamo parlato tantissimo in occasione delle elezioni americane. Ne abbiamo parlato tanto perché Obama ha sfruttato moltissimo i big data, queste grandi quantità di dati che troviamo sui social network e non solo, che vengono anche raccolti anche per vincere le elezioni, per tarare determinati messaggi e determinate politiche. E però si possono usare anche per raccogliere informazioni su quello che fanno i cittadini, sempre nel rispetto della privacy naturalmente, e magari elaborare nuove politiche, come per esempio le politiche sul traffico e alcune soluzioni urbanistiche. Come vedete, si può fare tantissimo, come al solito il nostro paese è nettamente indietro, abbiamo tutto il tempo e la possibilità di recuperare. Speriamo che naturalmente ci sia la volontà di farlo da questo punto di vista. Allora, noi ci fermiamo adesso, ci ritroviamo tra un attimo e affronteremo ancora un altro argomento. La prendiamo più leggera, vi faccio sentire qualcosa, delle cose migliori, le due, tre, quattro cose migliori secondo me della campagna elettorale, la campagna elettorale online di quello che è successo, e poi ci risentiremo un brano dell'intervista che abbiamo realizzato con il presidente dell'Autority per le telecomunicazioni, che è un'intervista interessante perché si parla di come una legge come la par condicio, legge considerata da alcuni funesta, fatevelo dire, è considerata funesta soprattutto da noi che lavoriamo nel mondo dell'informazione, che siamo costretti a equilibrare i 30 secondi anche su partiti che tu li metta in onda oppure no prenderanno lo 0,0 qualcosa per cento, però insomma tant'è. Questa legge considerata funesta, come si può cercare di muoversi anche in rete da questo punto di vista per assicurare parità di trattamento? Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Oh, ci sono cose alle quali non resisto. Allora, ve lo faccio riascoltare. Abbiamo risentito anche 3 settimane fa. Non me ne importa niente, perché questa scena qua, tale Diaco, candidato ad uno dei municipi di Roma nelle elezioni comunali per il Movimento 5 Stelle, fa uno spot elettorale su internet nel quale simula l'attimo fuggente. È una delle cose più orribili nell'ambito della propaganda politica che mi sia mai capitato di vedere. Daniele, io voglio cambiare questa città con il nostro programma. Sì, Antonella, ci credo. Antonella, si metta seduta. Presidente, oh mio presidente! Si sieda immediatamente! Le ho detto di sedersi immediatamente! Presidente, oh mio presidente! Alessandro, scendi immediatamente! Mica voterai il Movimento 5 Stelle! Dovete votare per la vecchia politica! Dovete votare per i poteri forti! Non potete votare Movimento 5 Stelle! e lei se ne va da Diaco con le sue idee strampalate. Dovete scendere giù, scendete giù. Grazie ragazzi, lo cambieremo questo paese. Avete capito? Dovete votare per la vecchia politica, i poteri forti. Lo cambieremo questo paese. Poi, vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla recitazione. E l'altra cosa che mi fa impazzire sempre è questo altro spot elettorale, sempre online naturalmente, perché di politica e di online che parliamo, del movimento dell'onorevole Scilipoti. Via! Solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora... Perché ha scelto di aderire al Movimento di Responsabilità Nazionale? Ho scelto di aderire al Movimento di Responsabilità Nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti perché proprio qui io mi posso far valere. Posso far valere le mie e le vostre idee, le idee di giovani che vogliono muoversi nella politica e vogliono volere far valere i loro diritti e le loro proposte. In questo movimento vige sovrana la meritocrazia. Allora ho deciso di far parte anch'io di questo movimento. Ho scelto questo movimento, il Movimento di Responsabilità Nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti. La meritocrazia del Movimento di Responsabilità Nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti. Dunque, facciamo una cosa. Dato che se n'è parlato di questo, ne parlò direttamente Angelo Marcello Cardani, che è il presidente dell'Authority per le telecomunicazioni, e parlò della questione della par condicio su internet, no? Poi ha detto: guardate, l'avete presa male la cosa, bisogna semplicemente ragionare, se hai una legge sulla par condicio, su come applicarla alla rete. Beh, insomma, decisamente complicato. Sentiamo che cosa ci ha detto. Da un punto di vista tecnico credo che sarebbe estremamente complesso, che è molto vicino al concetto di impossibile. In ogni caso sarebbe un dovere di chi scrive le leggi, non di chi applica le leggi come facciamo noi. Io credo che il Parlamento debba fare in modo di garantire accesso a tutti, allo stesso modo debba tentare di evitare, cosa che ha sempre fatto finora, almeno con la legge del Toto del 2000, che una qualche parte politica prenda il sopravvento sulle altre nel diffondere le proprie idee, giuste o sbagliate che siano, ma insomma è un problema di se c'è la preponderanza di uno c'è un minore accesso degli altri, quindi l'accesso deve essere garantito per tutti. Così Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Authority per le telecomunicazioni. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Chiedo a Pietro Lacorte, che mi ha accompagnato in regia oggi, quanto ci manca Pietro? Cinque minuti. Bene, allora è il tempo che mi serve per fare una serie di saluti. Come si diceva, fine luglio, ultima puntata prima dell'estate, e dunque è stato un anno intenso, e fatemi fare un po' di ringraziamenti estesi. Allora, non tanto chi ha contribuito a realizzare la trasmissione, perché me la sono fatta praticamente da solo e quindi ringrazierei me stesso, ma tutti coloro che sono stati ospiti e hanno fornito spunti e cose interessanti a questa trasmissione, non tutti, ma insomma alcuni. Iniziamo da parlamentari ed ex parlamentari, su tutti Andrea Sarubbi, nostro primo ospite, all'epoca parlamentare del PD, oggi collaboratore della Stampa, è stato l'inventore di Open Camera, con quest'hashtag raccontava quello che succedeva all'interno del Parlamento su Twitter. Ha convinto molti suoi colleghi in questo esperimento, che sembra adesso essersi un po' perso. anche ex parlamentare Anna Paola Concia del Partito Democratico, grazie per gli interventi preziosi soprattutto sulla violenza in rete nei confronti degli omosessuali e per il suo racconto personale. Sempre tra gli ex parlamentari, Roberto Rao dell'UDC, che un paio di volte si è prestato a parlare anche di questi temi e che è uno che di comunicazione capisce tantissimo. I parlamentari in carica. Due su tutti, Antonio Palmieri, responsabile internet del PDL, ormai se ne occupa da molto tempo, vera testa pensante, difensore acceso della libertà d'espressione in rete, anche quando alcuni suoi colleghi, anche di partito, vogliono limitarla. Penso alle leggi cosiddette ammazzablog o anche alle idee di qualcuno di punire la cosiddetta violenza in rete in maniera più energica. E poi Stefano Quintarelli, deputato di Scelta Civica, forse una delle persone che più capisce di internet in Italia e a questo punto anche all'interno del Parlamento. Parte importantissima, perché ora sono quelli che hanno fornito stimoli e spunti di interesse e di riflessione a questa trasmissione, blogger, giornalisti e non solo. Parto dalla squadra, per così dire, di un quotidiano Europa che sta facendo uno splendido lavoro non solo in rete ma a proposito della rete. Stefano Menichini, il direttore, forse il primo a suggerire che la pressione arrivata tramite internet su deputati e senatori PD potesse aver condizionato il voto per la presidenza della Repubblica. Filippo Sensi, non fu in rete, il vice direttore di Europa, la persona che anche da questi microfoni ci ha e mi ha aiutato a capire come stessero andando le cose effettivamente negli Stati Uniti. Fabio Chiusi, blogger, ospite molte volte ai nostri microfoni, che ha una capacità e una profondità di analisi che invidio e mi ha dato molte idee, lo stesso dicasi per un altro blogger, Massimo Mantellini. Grazie ad Ernesto Belisario, avvocato, esperto di diritto digitale, che ci ha aiutato a sciogliere molti nodi giuridici importanti. Gianni Riotta, giornalista, autore del web Ci rende liberi, anche da là ho preso molti spunti e anche naturalmente intervistandolo. Infine, i nerd, i topi dei dati, e intanto non si offendono se li chiamo così, gli amici di Voices from the Blogs, questo splendido progetto dell'Università Statale di Milano per l'analisi dei cosiddetti big data e l'analisi del sentiment della rete, e naturalmente Riccardo Puglisi, che ci ha accompagnato nella prima parte di questa trasmissione analizzando lui i dati, e poi insomma ci siamo un po' persi anche perché si è candidato in Parlamento, poi non è stato eletto, però un abbraccio anche a Riccardo. Grazie dunque al già citato Pietro Lacorte in regia, a tutti voi per l'ascolto, ci si risente presto. Italia!